stampa dell'Esta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. L'odio per lo straniero nasce dalla paura. L'odio e la paura dell'odio sono antichi quanto il genere umano, forse ancora più antichi, e le probabilità che la loro eterna familiarità con la condizione umana possa essere interrotta in un prossimo futuro appaiono alquanto scarse, sempre che ve ne siano. Odiamo perché abbiamo paura, ma abbiamo paura a causa dell'odio che avvelena la nostra coabitazione sul pianeta che condividiamo. Così ci sono sempre motivi più che sufficienti per avere paura e sempre motivi più che sufficienti per odiare. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia Carmelo Lauricella. E vi ho appena letto un pezzo della prefazione che Zygmunt Bauman, sociologo, ha scritto per un saggio di Leonidas Donkis sulla produzione di violenza nella società contemporanea. È un pezzo che viene pubblicato dal quotidiano La Repubblica. Leggiamo ancora: così ci sono sempre più motivi che sufficienti per avere paura e sempre motivi più che sufficienti per odiare. Sembra che l'odio e la paura siano prigionieri di un circolo vicioso, che si alimentino vicendevolmente e traggano l'uno dall'altro l'animosità e l'impeto che ne infiammano. L'odio è sempre stato con noi, lo è adesso e lo sarà per sempre, qualunque cosa facciamo, e per quanto impegno mettiamo per cercare di impiazzare ciascuna delle sue numerose e variegate manifestazioni con la mutua compassione, la comprensione, la solidarietà. È vero? Sì, ma non del tutto. Come ha fatto notare Albert Camus, c'è una novità impressionante nella vecchia storia che abbiamo riportato. Nei tempi moderni, i tempi in cui viviamo e soltanto nei tempi moderni, ci accade di diffondere e coltivare la paura e l'odio e di commettere atti di violenza che tendono a esserne conseguenza in nome di una vita migliore e pacifica, della felicità, dell'umanità, dell'amore, di usare insomma il male per promuovere il bene. Ecco, questo un'interessante prefazione di questo sociologo Zygmunt Bauman su uno dei temi più delicati della nostra epoca, che trovate su Repubblica. Vi ripeto, una prefazione di un libro sulla, appunto, la produzione di violenza nella società contemporanea, credo editto da Erickson. Ecco, dicevo, questo è una riflessione molto teorica, ma non c'è solo teoria a proposito di questi temi, perché, come avete sentito dai GR, nella Europa, nel vecchio continente, la paura ha prodotto poi un risultato politico molto evidente, ovvero la vittoria dell'estrema destra in Austria. E vediamo che sul Messaggero, per esempio, Paolo Pombeni commenta quello che è avvenuto. Vediamo cosa scrive. Vienna avanza la destra xenofoba, ritorna Haider, giù i socialdemocratici. L'Austria vira a destra, come di fatto era largamente atteso. È un segnale inquietante, sia perché è la seconda volta, la prima aveva provocato una durissima presa di posizione dell'Europa contro Haider, sia perché sembra indicare un trend a cui le forze politiche tradizionali non sanno opporsi. Per ora la virata, pur importante, non costituisce una vittoria decisiva del populismo xenofobo ed arroccato nell'idea della piccola patria da preservare contro la grande Europa, che si predica essere senza identità. Però potrebbe essere l'inizio di una espansione destinata a non fermarsi. Sì, questo si legge in questo commento sul Messaggero. Paolo Pombeni scrive ancora: i due partiti di destra, la BZO di Jörg Haider e il partito che si è formato dalla scissione di questo, la FPO di Heinz Christian Strache, non superano insieme il 30% dei voti. Non è certo poco, soprattutto in termini di incremento dei consensi, ciascuno è cresciuto di poco meno del 7%, ma non va dimenticato che i socialdemocratici, che pure hanno perso il 5-6% dei consensi, rimangono al 29,7%, quindi di fatto pari con l'estrema destra e che il Partito Popolare, la formazione centrista di radici cattoliche, è al 25,6%, pur avendo registrato un calo di 8,7 punti. Aggiungiamoci che i Verdi, anch'essi calati dell'1,2%, sono poco sotto il 10%. Insomma, ci sta dicendo Pombeni, non siamo ancora all'allarme massimo, cioè alla vittoria tanto da consentire di prendere la maggioranza e soprattutto il governo, ma certo il 30% è una vittoria netta della destra xenofoba e forse solo il fatto che le due formazioni fanno fatica a mettersi insieme si può come dire, evitare guai maggiori. Ora se però andiamo a vedere, parla Heinz Christian Strache, trionfatore a Vienna, appunto sempre in un'intervista alla Repubblica, dice: in Austria è finita l'epoca di un sistema politico dominato da due partiti, socialdemocratici e cristiani popolari, grandi fino a ieri, sono stati ridimensionati e adesso devono fare i conti con noi, la vera nuova destra. Questo dice, così parla alla TV Orf Heinz Christian Strache, il giovanissimo 39 anni vincitore delle elezioni politiche di ieri in Austria, ex delfino e rivale di Jörg Haider. Signor Strache, che priorità porrà adesso? Cercherò di lavorare con coerenza per realizzare il programma elettorale che il mio partito, la FPOE, ha proposto agli elettori austriaci. Ecco, naturalmente nei guai grossi vi è il cancelliere Merkel, perché Baviera, si legge qui, crollo storico della CSU, per la Merkel è un terremoto. Pesante sconfitta in Baviera per il polo democristiano conservatore della cancelleria federale Angela Merkel a meno di un anno dalle elezioni politiche nazionali in Germania, cioè un bruttissimo segnale quindi per il capo del governo tedesco. La Repubblica, e poi la abbandoniamo per altri quotidiani, pubblica anche una cosa curiosa: le carte, le canzoni, i soldi e il sesso, così gli 007 inglesi spiavano i Beatles, la famosissima, storica, mitica formazione. Un'inedita documentazione sui Beatles è custodita tra gli scaffali del National Archives di Kew Gardens alle porte di Londra. Lì dentro ci sono molte tracce sugli 8 anni di splendore della band. Quando vanno in giro per il mondo sono monitorati giorno per giorno, ora per ora. Report classificati confidential o restricted che raccontano il loro e intorno a loro. Questo quindi una cosa inedita, insomma, su altri, e ancora poi naturalmente, come vedremo, ma torneremo su questa vicenda, crack USA, sì, del congresso, ai primi 250 miliardi di aiuti e sono tutti con il fiato sospeso, ovviamente, perché dalla decisione presa dipenderà come si comporteranno proprio stamani i mercati statunitensi. Veltroni è ritornato comunista. Ufficiale, il buonismo è finito. Il leader del PD attacca, rischio dittatura con Berlusconi e Berlusconi replica, così il dialogo è impossibile. Questo in sintesi la prima pagina del quotidiano Il Giornale, che affida a Paolo Guzzanti un commento dopo la decisione di Walter Veltroni di rilasciare un'intervista a domenicale al Corriere della Sera, dove si attacca duramente Silvio Berlusconi. Vediamo cosa scrive Paolo Guzzanti. L'involuzione di Walter, uno strappo al contrario. Veltroni scherza col fuoco paragonando l'Italia di oggi alla Russia di Putin. Glielo dice uno che dissente totalmente dagli amori putiniani di Berlusconi, visto che per dovere d'ufficio so che cos'è il KGB di ieri e di oggi. Il confronto veltroniano tra l'Italia e la Russia, più che stiracchiato, è sbagliato e dimostra, a parer nostro, nella sua clamorosa inaccuratezza, inaccuracy, per l'amico Walter che frequenta la nostra stessa America, il ritorno gravitazionale al passato, all'antiberlusconismo dell'età della pietra, con la clava, un antiberlusconismo che rinuncia persino di comprendere i limiti reali dell'attuale governo per incarognirsi in stereotipi dissennati e sterili. L'Italia deve sapere Il nostro Walter è una fortissima democrazia, ben viva in tutte le sue aree politiche, anche se si porta dietro vecchie e nuove piaghe. E di questa buona salute di base dovrebbe essere prima di tutto soddisfatto come democratico, tout court, visto che questo paese, che fino a pochi anni fa non aveva una destra decente da mandare al governo, adesso ne ha una che governa con un consenso valutato dai giornali di sinistra come Repubblica intorno al 60%. Il problema dovrebbe sapere Veltroni, ma lo sa, semmai è la sinistra che non cresce, non crepa un po' come la capra e la panca del scioglilingua. Ieri abbiamo letto una sterminata intervista di Veltroni al Corriere della Sera, scrive Paolo Guzzante sul giornale. L'abbiamo letta con l'attenzione e con la speranza di trovare finalmente lo scatto, la novità, il colpo di genio politico che permettesse di provare quel che ha provato ieri l'altro sentendo Obama. Io faccio il tifo per McCain, ma sono di nuovo rimasto affascinato dalla forza analitica e dalla capacità di progetto che ha Obama e che non ha Veltroni, per quanto grido di yes we can, visto che lui can't, cioè he can't, cioè non può. La tesi generale è che l'Italia marcerebbe verso una forma di democrazia autoritaria con Parlamento svuotato come nella Russia. Dice questo non è vero e quindi tutta la tesi di Guzzanti è a smentire questa ipotesi in un lungo articolo sul giornale, questa ipotesi avanzata. Tra le altre cose, il giornale pubblica anche un quello che definisce sondaggio shock, che se così è un po' shock davvero lo dovrebbe essere per il PD, perché dice per, in Emilia vola la Lega, nella roccaforte di Reggio il partito di Veltroni per la prima volta sotto il 50% e la popolazione è scontenta dell'amministratore in vista del voto del 2009. Le previsioni per la provincia lanciano il carroccio. Alessandri, siamo al 12,5%, puntiamo al ballottaggio, ecco questo, e dice ancora tutti mettono in evidenza che mentre Veltroni attacca così duramente Silvio Berlusconi, il D'Alema dice il cavaliere può andare al colle, cioè legittima l'ipotesi, un'ipotesi che è stata avanzata da tempo, che poi alla fine Silvio Berlusconi punti al Quirinale in un prossimo futuro, insomma, ecco. Questo per quanto riguarda la politica, ma se rimaniamo su questo terreno no, non possiamo non leggere invece quello che scrive sempre sul Corriere della Sera, non questa volta Walter Veltroni, ma Orlando. Leo Luca Orlando, eterno candidato congelato alla presidenza della vigilanza Rai, questo in questa intervista a Roberto Zuccolini, dice è così d'accordo con Walter Veltroni che rincara la dose. Per lui, ex sindaco di Palermo e portavoce dell'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, il Presidente del Consiglio nel suo autoritarismo ci sta portando verso un modello argentino, dice, altro che Putin, proprio un modello argentino. Le è piaciuto ciò che ha detto al Corriere il segretario del PD, chiede l'intervistatore, mi sembra una buona ricostruzione del momento che sta passando il nostro paese, momento che Veltroni giudica molto negativo per quanto riguarda il governo, e ha ragione, a mio giudizio ci sono due aspetti in particolare che appaiono significativi dello svuotamento della democrazia di cui parla il segretario del PD. Quali? Il primo riguarda il progressivo indebolimento dell'iniziativa parlamentare, avviene in tanti modi, ad esempio con gli ostacoli posti all'elezione del Presidente della Vigilanza Rai, senza aggiungere altro, dato che, come è noto, sono io il candidato, ma anche con la mancata integrazione dei giudici mancanti della Corte Costituzionale, che è un organo fondante della Repubblica, e ancora con un ricorso ai decreti legge così frequente da rimpiazzare la normale attività parlamentare, per non parlare dell'abolizione delle preferenze nelle gare elettorali, un sistema che ha trasformato i parlamentari in trofei dei capi di partito. E il secondo aspetto rappresenta il fatto che con un Parlamento debole l'unico ruolo politico è svolto dal governo, che oltretutto non riconosce una sua dignità all'opposizione. Veltroni fa bene a parlare di radicalità decisionista, di esaltazione dell'esecutivo che porta a una sorta di presidenzialismo. E qui introduce il concetto modello Putin, credo che il riferimento alla Russia sia un espediente comunicativo, mi sembra più calzante il paragone con Buenos Aires, l'autoritarismo di Berlusconi ci sta portando verso un modello argentino con tutto ciò che ne consegue. Beh, insomma, non sarebbe certo una bella prospettiva se avesse ragione Leo Luca Orlando. Questa naturalmente però è tutta una vis polemica di Leo Luca Orlando in questa nuova stagione, e Berlusconi replica: basta dialogo con Veltroni. E poi sul lodo, ma torneremo sulla vicenda del lodo Alfano, perché voi sapete c'è molta polemica, c'è stato un PM che ha presentato un vizio di incostituzionalità per il lodo Alfano, e quindi adesso si dovranno pronunciare la Corte Costituzionale per l'appunto, e su questo è innescata la polemica. Voglio anche ricordarvi che il mercato e la libertà, Piero Ostellino, la crisi del capitalismo USA. E a proposito, prima però di passare all'economia e alla finanza, volevo soffermarmi sul Riformista e sull'Unità. Il Riformista registra appunto questa svolta di Walter Veltroni e addirittura sostiene che questa svolta porterà una maggiore unità tra Veltroni e l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Se il 25 ottobre diventa il 25 aprile, è l'editoriale sostanzialmente del lunedì di Antonio Polito, direttore del Riformista, che scrive: Walter Veltroni all'attenuante della provocazione. Chi pensava che potesse durare a lungo il buonismo del dopo elezioni si sbagliava di grosso. Veltroni ci ha provato ai limiti del collaborazionismo, gli incontri segreti all'alba con Letta, i ministri ombra che prendevano il tè con quelli veri, le commissioni a Talì e De Noartri, ma la politica, come la natura, non sopporta il vuoto. Quel Veltroni lì non poteva durare senza la benevolenza di Berlusconi. Se il vincitore gli avesse offerto un patto sulla costituzione materiale del paese, visibilità in Parlamento, cogestione in Rai, consultazioni sulle grandi scelte, forse Veltroni non avrebbe potuto reggere, ma Berlusconi è troppo politico per non sentire il richiamo irresistibile del sangue e ha infierito. La vicenda all'Italia per Veltroni è stato il colpo di grazia, subito con un'offesa anche personale. Ma come, io ti aiuto a salvare la baracca e tu non me ne riconosci neanche un po' di merito? Anche i politici sono esseri umani, hanno istinti di autodifesa. Morire per morire, deve aver pensato Veltroni, preferisco morire in piedi. La sua svolta dunque all'attenuante della provocazione, bisogna però vedere se per salvare se stesso salverà anche l'opposizione. Questa è l'editoriale di Antonio Polito sul Riformista, sulla linea esposta da Veltroni al Corriere, in cui si paragona il Berlusconi a Putin. La manifestazione del 25 ottobre, ecco il punto, contro il governo si trasformerà in un 25 aprile, cioè al giorno della liberazione, e forse è stato fatto proprio per riempire quella piazza. Prova ne sia l'intervista che oggi Di Pietro consegna al nostro giornale, in cui afferma che a questo punto niente distingue l'opposizione del PD dalla sua, e in piazza si può andare insieme. Regista della mobilitazione sarà Achille Passone, l'uomo che portò 3 milioni di italiani da Cofferati. Ecco, questo sostanzialmente scrive Antonio Polito, direttore Riformista, mentre l'Unità, ovviamente l'Unità enfatizza la svolta di Veltroni. Berlusconi minaccia la Consulta, anche se questa svolta assomiglia un po' più alla linea che l'Unità aveva con Furio Colombo e poi ancora con Padellaro, ma comunque Berlusconi minaccia la Consulta, il Premier, se il lodo Alfano non passa, servirà una profonda riflessione sulla giustizia. Il PD, grave intimidazione, Veltroni, il capo del governo, agisce come Putin. Ecco, qui c'è il tema forte che avevo annunciato, invece di tutta la vicenda relativa al lodo Alfano, quindi richiesta alla Corte Costituzionale, e poi le parole di ieri di Berlusconi, che dice: no, non è possibile che la Corte Costituzionale si pronunci contro il lodo Alfano, se no dobbiamo rivedere tutto, e quel rivedere tutto ha messo in allarme l'opposizione. E c'è Staino, anche vignettista cattivissimo: Berlusconi sta con Bush ma imita Putin, per far la sintesi del peggio di entrambi. E poi invece abbiamo notizie: luce e gas, arriva la stangata di ottobre, lo sappiamo già, e saranno e dolori un po' per tutti. Vi dicevo però che poi c'è il capitolo economia e finanza. Allora cominciamo con La Stampa, perché La Stampa affida a Franco Bruni la crisi americana, i ricatti del piano Bush, e una riflessione su questa vicenda drammatica della crisi finanziaria e del piano da 700 miliardi di dollari pubblici per togliere attività malate dal bilancio delle banche Cosa scrive Bruni? Dice i ricatti del piano Bush. Il ministro del tesoro americano tenta di trovare un accordo col congresso sull'enorme fondo con cui vuole acquistare dalle banche i loro titoli malati e tossici. È anche un tentativo di rimediare all'arroganza con cui Paulson ha inizialmente presentato un piano sul quale oltretutto si è mostrato impreparato e impreciso, non solo nei dettagli. L'idea è che non si può aspettare un'altra settimana lasciando i mercati nell'incertezza. La fretta è la prefigurazione di un irresistibile enorme disastro. In mancanza del provvedimento proposto diventano le armi di un ricatto esercitato dal governo insieme alle banche. È paradossale che le autorità finanziarie russe, che dovrebbero cercare di drammatizzare la situazione e infondere fiducia nei mercati, siano indotte a fare esattamente l'opposto, per ottenere più facilmente l'approvazione dei provvedimenti di emergenza che propongono. Ecco, questo scrive Franco Bruni sulla stampa. Scrive ancora Franco Bruni: i provvedimenti straordinari non risolvono il problema alla radice né impediscono il suo ripetersi futuro. Per una vera, duratura soluzione ci vorrebbe innanzitutto una riforma profonda della regolamentazione della vigilanza finanziaria. Paulson ne è consapevole, ma l'altro giorno ha scongiurato: per favore, non questa settimana. Anche su questo fronte c'è in preparazione il rischio dell'improvvisazione. Servirebbe inoltre il ritorno della fiducia nella strategia delle banche, che induca tutto il mondo un nuovo flusso di investimenti nel loro capitale, senza il quale il credito non riprenderà mai a fluire normalmente. Perché torni la fiducia deve cessare al più presto la demonizzazione della finanza, che è di gran moda e che i regali alla Paulson potrebbero invece prolungare. E comunque rimane il fatto, al di là di queste considerazioni, che davvero la prova del fuoco sarà l'andamento dei mercati proprio oggi, perché questo piano, con tutti i suoi limiti, sembra sia stato approvato nelle sue linee generali, anche se rimangono alcuni punti scoperti. La stampa titola: Blitz fallito, uccisi sei repitori, affida a Guido Ruotolo una considerazione. Se Khartoum rema contro, sembrava che fosse fatta, che si dovesse aspettare soltanto che finisse lo scambio, che gli ostaggi insomma prendessero la strada di casa. La trattativa, dicevano sabato fonti diplomatiche istituzionali italiane, ora ormai in discesa, e ieri alle 3 del pomeriggio ribadivano che al massimo si dovrà aspettare fino a martedì per riportare a casa i nostri connazionali. E invece ieri è successo quello che in molti speravano che non accadesse: uno dei paesi coinvolti nel maxi sequestro di cittadini tedeschi, italiani, romeni ed egiziani, il Sudan, ha tentato la prova di forza, il blitz, e questo evidentemente per far saltare il tavolo delle trattative, tavolo al quale non partecipa. Il governo di Khartoum sta remando contro, giocando a carte scoperte sin dal primo momento. Già martedì aveva rivelato di aver individuato il luogo dove si era riparata la carovana di ostaggi e carcerieri, di aver circondato l'area. Per fortuna, come avete sentito anche dai GR, le rassicurazioni dell'ultima ora sono che non c'è pericolo, diciamo, per i nostri connazionali, per i 5 turisti torinesi nelle mani dei sequestratori, e quindi ora sono in Chad, sembrerebbe che sono in Chad, e comunque non c'è pericolo per loro. La stampa affida anche a Pietro Garibaldi una riflessione invece d'altro tipo sull'Alitalia e i contratti, il rischioso gioco dei sindacati. Dice: dopo settimane di estenuanti trattative sindacali per trovare l'accordo sulla nuova Alitalia, si è aperta una nuova fase nelle relazioni industriali. Non è la fase di unità riformista che molti auspicano, ma una di strappi interconfederale, o forse addirittura di vera e propria rottura sindacale. È uno scenario preoccupante, anche perché nelle prossime settimane il sindacato dovrà affrontare un tavolo che riguarderà tutti i lavoratori italiani, quello della riforma del sistema contrattuale. Volevo poi segnalarvi sul quotidiano La Stampa, se non mi sono sbagliato, una doppia pagina addirittura, un'intervista a tutto campo fatta da Claudio Sabelli Fioretti a Gianni Alemanno, sindaco di Roma e esponente, che esprime una serie di: la sinistra mi stima ma mi demonizza, abbiamo fatto insieme molte cose per l'ambiente, poi ho vinto a Roma ed è tornato l'odio ideologico, dice nei confronti di Rutelli: dopo rapporti cordiali non mi difese dalle strumentalizzazioni. Onore a Bertinotti, autenticità dei valori, spirito aristocratico e utopia, mi piace. e ancora dice il fascismo, a proposito del fascismo, il totalitarismo rovesciò in negativo i valori della destra, razzismo fu l'orrore più grave, nel MSI gli antisemiti venivano espulsi. Poi il gioco della torre, Travaglio o l'Aguzzanti, lei è simpatica, lui troppo aggressivo, lo butto. Gioco della torre 2, Santoro o Floris, da Michele sembra di stare in un infimo tribunale. Mussolini Benito, mai stato a Predappio, il suo busto, non amo questi cimeli. Mussolini Alessandra, ha una storia politica breve, il suo nome non mi interessa. E questo è Gianni Alemanno, chi fosse interessato, ripeto, una lunghissima intervista, ben due pagine molto fitte anche sulla storia di questo personaggio della destra che ora è il sindaco di Roma. Questo il quotidiano La Stampa. Se noi andiamo a vedere poi il Sole 24 Ore, ecco, il Sole 24 Ore invece apre su del lunedì su una notizia diversa: il nostro nome in 400 archivi, con il federalismo si moltiplicherà l'utilizzo delle banche dati, dalla sanità ai consumi, dove sono conservate le informazioni personali dei cittadini, tracce della nostra identità si trovano in media in almeno 400 banche dati, quindi altro che privacy, insomma, dall'anagrafe comunale agli archivi delle ASL, dallo schedario della palestra al deposito bancario, dalla polizza assicurativa all'ultimo albergo visitato, dovunque ci rechiamo lasciamo impronte puntualmente registrate. Questo è l'articolo di apertura del Sole 24 Ore. Io volevo però anche, ecco, dunque ritrovare, vediamo se lo ritrovo, c'è un articolo su, scopri i pericoli dei bond strutturati, Marchesoni e Novellini, che a pagina 7 ci svelano tutti i segreti di cosiddetti bond strutturati, che poi sono, come dire, la fonte, un po' in parte la fonte dei guai finanziari che sta venendo la finanza internazionale in questo momento. Nelle scelte dei panel di titoli cui agganciare l'investimento, per ora è meglio essere cauti sulle grandi istituzioni finanziarie internazionali, bond strutturati, occhio ai tranelli, rating, rendimenti, interessi, come capire la qualità dell'investimento fatto. Questo sul Sole 24 Ore, ed è importante perché davvero molti risparmiatori possono poi incappare nei cosiddetti bond strutturati e devono un po' essere preparati ai pericoli. E a fare finanza, anzi il Corriere Economia titola in grande, l'inserto del lunedì del Corriere della Sera, l'alba della Post America, lo Stato diventa imprenditore mentre la squadra di Paulson occupa i posti chiave del potere in attesa del voto, più Stato meno mercato, la Post America non è più la terra del liberismo e dopo il fallimento di Washington Mutual gli States si interrogano su come uscire dalla crisi. Questo per quanto riguarda il Corriere Economia, che mentre Affari e Finanza, che è l'inserto del lunedì del quotidiano La Repubblica, così titola: allarme sui mercati, ora è SOS dollaro, la Federal Reserve lancia l'allarme e si affida al piano Paulson, ma gli economisti delle banche sono divisi. Per Citigroup la valuta USA ha l'occasione per tornare all'espressione dell'economia in crescita, per Barclays sarà un buon rimedio per la finanza ma non per i cambi. E io penso vada segnalato su Affari e Finanza un'intervista che Giovanni Pons ha fatto a Mr. Todds, basta con l'ubriacatura della finanza. Diego Della Valle lancia un web TV con Gwyneth Paltrow, ma a parte questa cosa dice Diego Della Valle, ubriachi di finanza, torniamo all'industria, non se ne può più di questa finanziarizzazione. Diego Della Valle non è particolarmente turbato dalla tempesta finanziaria che imperversa sui mercati finanziari internazionali, la sua azienda, la Todds, è sempre restata ancorata all'economia reale e il modello industriale che ha reso famoso il Made in Italy nel mondo non può inclinarsi a causa di speculazioni selvagge sui mercati. Dice infatti Della Valle: noi facciamo prodotti, se piacciono la gente li compra, ci paga in contante e noi con una parte di quei soldi retribuiamo i dipendenti e coloro che ci forniscono la materia prima, pelle e altro. Se il mio prodotto non piace vendo di meno e ho un problema, ma questo sistema ha sempre funzionato e funziona ancora, cioè l'economia reale, il dominio dell'economia reale e non quella finanziaria. Abbiamo finito il nostro tempo, vi voglio ricordare che potete telefonare anche prima delle 8.30 al microfono aperto all'800 24 00 24 per intervenire in diretta tra le 8.30 e le 9. A dopo.